Una valigia e i tuoi vestiti sul letto, aspettano di andar via. Il tuo caffè e le sigarette sul tavolo non ci saranno da adesso. Un forte odore di colore sulla mia pelle è l'ultimo tuo ricordo, che spegne i sensi del passato vissuto insieme, bruciato ora da te. Ma se questa voce trapassasse il tuo cuore,